finiscimi, ti prego, fallo subito. Salvami ciò, tensimi, culo e aperto. Ti prego, affonda il colpo nella tua testa. Tra di noi c'è la sfiglia d'acqua giù nel terra. Con vetro esperto, sfallo sulla testa. Lo scempio, il fondo del tuo cancello, quame incerto, tutto. Ma si fa più qua giù per terra. Porto adesso il tempo, ti prego, fallo anche del nostro primo amore. Lo scempio, innominabile cancella, parole, tutto, la maschera, stupube, stupratore, che porto adesso al tempo, stimbiglio, tra le panche del nostro primo amore. Là mi prendesti in nube di parole, si fa più. La mascherasti il pube stupratore. Fallo sui mi portasti in vigna, mio scemo. E cose da non dirsi, le cancello a non dirsi. Tu, aliena la memoria, adesso erra. Piovevano le ombre, si batte sulla testa. Tra i rami secchi dell'inesistenza, in preda immotivabile astinenza, gettavo via quel po' di niente, ti prego, alla finestra, affaticavo un corpo, sempre più similare, cancella, signore, tutto, poi anche quello, piercing dopo piercing, che porto ridotto il tuo giocattolo peggiore, le panche del nostro ed darci dentro l'ora e metti fine, la mi prendi senza fretta, spingi, senza fretta, la maschera, traduci questo libro d'ore, gonfia in fetta, al livido macello, onesto scolpo, fottimi ancora, in cella di clausura, aliena, abbavagna, orecchie, catenacci, forgiati dal silenzio, sciogli i lacci, tacci dentro, finiscimi ed infine, seppellisci la cosa che non dura, se un poco dura poi, fa un poco tu, miserere di te, chiunque sia.